Check al mic. Ha, MC Bugi sul beat. Direttamente da West End. Finito il tempo del babbeggio. Mo c'ho pepe al culo. Che abbrucia, abbrucia. Yo, Anton al DJ. DJ Jazzy Jungle scratcha da chissà dove. Pepe al culo. Pepe al culo. Pepe al culo, per il gruppo crudo. Grosso modo chiodo scaccia chiodo. Chiedo non ti credo, non mi fido. Metto a nudo, sciolgo nodo, dopo vedo. Vado dove devo, siedo sopra spiedo. Grido, sfido, tiro dado, dopo dudo. In questo tedolo da un quarto di secolo. È tarda mattinata eppure già pensa al crepuscolo. Si impone l'azione, una nuova direzione. L'abnegazione, la negazione di se stessi. Meno arrendevolezza, l'inadeguatezza. Non ci si raccapezza, ma tocca andare dritti verso l'autoconsapevolezza. Che il conato viene prima, poi si rezza. Concretezza, con criterio fomentare l'arditezza. Arde gola nell'ebbrezza, spalle al muro, pepe al culo. Pepe al culo. Pepe al culo. Che tu sia pronto oppure no non ha importanza. Qui non c'è freno d'emergenza né pazienza. Il treno avanza con baldanza nel suo viaggio. Fra chiaroscuri esistenziali peggio che Caravaggio. E non c'è tempo più per il babbeggio. Giocando resta saggio, ci caleggio. Fra un maneggio ed un polleggio, fra un arpeggio ed un fraseggio. Frastornato da sto caldo che m'avvampa nel meriggio. Nessuno omaggio, manco per il cazzo. Ci manca poco che mi fa pagare pure il sovrapprezzo. Lo sprazzo mi s'apre d'improvviso mentre mi disprezzo. Già da un pezzo che c'ho il dubbio di essere pazzo. Ma è solamente la mia mente stramafiosa che si fa pagare il pizzo. E puzzo di vittima innocente come Alfredino dentro il pozzo. Buio scuro, pepe al culo, pepe al culo. Pepe al culo. Eyo. Pepe al culo. Pepe al culo. Gruppo crudo 07. Con il DJ. Yo, yo. Ancora. Pepe al culo. Pepe al culo. Pepe al culo. Pepe al culo.